buoni su toni, di campioni son suoni, ma son tuoni che intoni in ragioni, divisioni sti suoni, non di finzioni, son suoni buoni, se li poni son nuove Vai. Creazioni, sensazioni, doni, mi ubriaca come gin tonic, supersonico, rap elettronico, tipo Sonic, come Johnny Mnemonic, metà uomo, metà macchina, la rima arriva astuta come il gusto che ti sbazzina. Su base il razzi rotto a danno se ti biasi fazzi pizzo come un nazi in uno stadio. Son vario in quanto vario il mio vocabolario, umanitario, aiuto interplanetario. Totalitario come un commissario, voglio il comando del microfono però non vado in radio. Aio, è necessario questo suono nuovo o no? Sì, è necessario. Non ho sentito, è necessario questo suono nuovo o no? Ho detto sì, sì, è necessario. Sono solo suoni su toni, di campioni son suoni, ma son tuoni che intoni in ragioni, divisioni sti suoni, non di finzioni, son suoni buoni, se li poni son nuove creazioni, sensazioni, doni.